ha iniziato questo viaggio nel multiforme mondo della vagina e chi come voi si trova qui oggi per la prima volta. L'importante è sapere che, indipendentemente dal nostro sesso biologico, orientamento sessuale o identità di genere, siamo qui per occuparci della nostra vagina, conoscere quella di altre donne, scambiare esperienze, ascoltando anche il punto di vista dei rari uomini che immagino piacevolmente in ascolto. Qui lasciamo cadere i tabù, i pregiudizi, la paura. Qui ci occupiamo di violenze domestiche, sociali e culturali, ma ridiamo moltissimo. Impariamo a trovare il piacere e a guidare il nostro partner, raggiungere la nostra essenza e conquistare una piena libertà attraverso la nostra vagina, appunto. Vedo sguardi interdetti. Sento molte vagine preoccupate. Anche la mia è preoccupata, e io sono preoccupata per lei. E per questo ho creato tutto questo movimento di vagine che vengono, vanno e con piacere ritornano. Ecco perché siamo qui oggi e torneremo ad essere qui domani e ancora, per interrogarci, parlarne, abbattere il muro, superare lo scoglio, varcare la frontiera. L'importante è percepire questo spazio come un luogo protetto. Potrete e dovrete sentirvi assolutamente libere di esprimervi, perché tutto ciò che verrà da voi rivelato rimarrà all'interno del nostro cerchio terapeutico e creativo, un cerchio un po' allargato. Comunque, bene, prima di poter parlare di noi, dobbiamo poter parlare del nostro organo sessuale. Come lo chiamiamo, innanzitutto? Chi vuole cominciare? E quante di voi la chiamano vagina? Io ho imparato, ma sono stata educata a dire parti intime. È vero, anch'io. Una volta dissi a mia nonna, ma perché dici parti intime, pure sottovoce, siamo sole? Ma non si dice. Infatti, così dicevano, non si dice. Come se vagina fosse una parola porno, è solo un termine che indica una parte del corpo, come piede, polso, orecchio. È sporca, diceva mia madre. Oppure non sta bene, diceva mia nonna. E dire mamma, nonna, sveglia, anche voi avete una vagina, no? No, farfallina era già trasgressivo. Così? Topina. E invece bisogna chiamare le cose con il proprio nome, perché ciò che non si dice non esiste, non viene visto, riconosciuto. Ciò che non diciamo diventa segreto, tabù, frustrazione. E poi si rischia di passare degli anni dallo psichiatra. Giusto, perciò noi diciamo vagina perché? Perché è una parola ancora imbarazzante. Perché vorrei poterla dire senza il bisogno di abbassare la voce. Perché è una cosa preziosa e da quando l'ho inaugurata mi piace. Perché oggi voglio che sia la mia parte vincente e non più una gran paura. Diciamo vagina perché ogni anno il 35% delle donne nel mondo subisce una violenza. 1.050.000 donne vengono stuprate o uccise, per lo più da parte del partner o da un membro della famiglia. Per questo dobbiamo preoccuparci per la nostra vagina. E si può dire passera, dottore? No. Ma perché passera è volgare? Non credo sia chiaro cosa si intende per passera. Vulva è un altro termine. No, per carità, vulva poi. Ma non so parole facili, sembra un'infezione, una medicina. Infermiere, mi passi la vagina? Ma non ha niente di sexy. Oppure durante un rapporto sessuale, caro, mi potresti carezzare la vulva? Ma sa moscio tutto coso, dottore. Mia nonna diceva, a bucciacca da pigliare, E a Napoli la chiamava bucciacca. Beh, da noi topa, sorca. Il peggiore è fregna. Perché gnocca? O fica. Peggio ancora patata o patonza. Ecco, ho ragione o no di essere preoccupata? Perché le nomenclature affibbiate al nostro organo sessuale sono infinite e non così lusinghiere. C'è da dire che noi italiani, in quanto a fantasia, non ci batte nessuno, Noi ci sbizzarriamo con i nomi. A questo proposito, leggiamo come questo nostro popolo di santi, poeti, navigatori, esploratori di vagine le ha classificate nei seguenti generi: oggetti generici, cosa, mercanzia, essa. Oggetti domestici, borsa, padella, pentola, scodella, tegame. Tessitura e abbigliamento, ciabatta, pelliccia, tasca. Caccia e pesca, rete, tagliola, trappola. Navigazione, barca, vela, gondola. Strumenti musicali, chitarra, piva, zampogna. Monete, patacca. Luoghi, varco, abisso, buco, bosco, caverna, palude, giardino, tana. Architettura, casa, capanno, porta, canale. Vegetali, fiore, rosa, fragolina, prugna, fica, lattughina. Cibo, frittella, lasagna, gnocca. Personificazioni, Bernarda, Filippa. E da qui si vede anche perché siamo un popolo scisso, diviso, perché non riusciamo ad andare d'accordo da nord a sud, da regione a regione, da partito a partito, all'interno dello stesso partito. E perché? Perché ognuno deve chiamare le cose a modo suo, cambiare marchio, timbro, logo, etichetta. Il risultato è che nessuno capisce di cosa si sta parlando e i problemi non si risolvono mai. Eh sì, e poi ancora se ti esprimi con patonza, fava, pisello, come fai a dire abbattiamo la dualità, armonizziamo gli opposti, il giorno, la notte, il brutto, il cattivo, il bello, il buono, yin e yang? A proposito di filosofie orientali, ma non dite niente di quel che vi ho portato? Ah, l'hai portata tu? La dea della fertilità. Enorme. Un tempo veniva venerata con tutte le altre dee. Anche dagli uomini? Certo, tutti riconoscevano la superiorità dell'energia femminile. E hanno sempre capito tutte cose, Ghilla. Chi? E gli orientali. Però quando vediamo la donna raffigurata in questo modo, le reazioni non sono sempre così positive, no? Cosa pensiamo normalmente avanti? Troppo prosperosi quei fianchi. E troppo abbondanti quei seni. Troppo debordanti quelle natiche. Troppo evidenti quelle vulve, troppo. Troppo di tutto, insomma. Ma forse è la nostra idea di un corpo femminile perfetto, no? Infatti è proprio quest'idea che non ci fa cogliere la voce che parla attraverso queste icone, il loro significato simbolico, l'essenza di ciò che siamo. Infatti il buddismo tantrico dice che la buddhità risiede nella vulva. Ah, capito. E se la buddhità risiede nella vulva e non nella fregna o nella gnocca, noi ora l'andiamo a risvegliare cercando la sacralità del nostro corpo attraverso la nostra meditazione dinamica. La che? Meditazione? Focalizzate tutta l'attenzione sul pavimento pelvico e pronunciate la parola vagina. Vagina! Perché, cari miei maschi alfa e donne beta gamma delta, bisogna saperci fare con la vagina, prepararla prima della performance, prima di qualsiasi sex or social activity. I preliminari sono fondamentali. Dovete parlare, convincere la vagina, sedurre la vagina, suscitare la fiducia della vagina o vulva, se preferite. E per trovare la vostra, cari miei, e non accontentarvi della prima che passa, dovete chiamarla. Chiamarla? In modo politically correct, che sta per toccarla, masturbarla. Su, provate. Vagina. Vagina. Dove sei? Dove sei? Se ci sei, dai un segno della tua presenza. Se ci sei, dai un segno. Non più ardore, su, su, vieni fuori. Vieni fuori. Dove ti sei nascosta? Vieni su. Più bramose, avanti, se no non si muove, vi rimane imbalsamata, vieni. Vieni, vieni, vieni. Ed ora unitevi alla nostra danza della vulva. Ricorda, non è la testa che guida il movimento. Lasciate che sia la musica a muovere il vostro corpo. Non opponete resistenza. Il successo è un viaggio, non una destinazione. Apri fede nelle tue capacità e farai bene. Coloro che non sono coscienti di camminare nell'oscurità non cercheranno mai la luce. Siete entrate in contatto con il vostro sacro principio femminile? Sì, in tutto il suo potere. Un grande potere che all'uomo manca. Un potere che ci rende speciali. Divine. Perché come l'universo noi siamo capaci di generare la vita. E di nutrire con il latte che sgorga dal nostro seno. E ogni mese, secondo i ritmi dell'astro lunare, noi sanguiniamo. E diversamente da chi perde sangue per una ferita, noi non moriamo. Non moriamo. Nella nostra vagina confluiscono i cicli dell'universo, sì, della luna, delle stagioni, delle maree, della fecondità della terra. E ben vengano donne solenni e possenti come le icone sacre, seni rigonfi e nutritivi, ventre rotondo e pieno, fianchi abbondanti, natiche prosperose, vulva grande e aperta. Vulva grande e aperta. Ah! Talmente grande e aperta che ora la portiamo in passerella. E la facciamo sfilare. E ci sentiamo belle, bellissime, come non ci siamo mai sentite prima. Proviamoci e poniamoci questa domanda anche voi tra il pubblico: cosa indosserei stasera per sedurti? Una tuta da motociclista, luci del presepe, una pelle di serpente, un abito da papessa, il vestito da ballo di Cenerentola, quasi nuda, un vestito da geisha. Ora continuate a sfilare e fate emergere dal vostro inconscio il titolo di un film. Ponetevi la domanda: quale film vorrei essere? Evita, le fate ignoranti, Filomena Marturano, Giulietta degli spiriti, Frida, Barbarella, la ragazza con la valigia, Thelma e Louise, Mamma Roma, Giovanna d'Arco, donne sull'orlo di una crisi di nervi, Eva contro Eva, lungo la valle delle bambole, Anna dei miracoli, e Dio creò la donna, Victor Victoria, la città delle donne, le notti di Cabiria, il favoloso mondo di Amélie, l'ipazia, tutto su mia madre. Parla con lei, guarda caso il titolo della nostra rassegna. Molto bene, molto bene, tornate pure a sedervi. Ed ora cominciamo a scendere nell'intimità. Quali sono le richieste erotiche più singolari e stravaganti che avete ricevuto nella vostra vita? Legami e fammi tutto quello che vuoi. Troppo semplice. Vuoi mettere? Massaggiami lo sternocleidomastoideo. E perché? Accarezzami il cavo popliteo. Ma che state a dire? Ce l'ho! Schiacciami lo scafoide. E che ne so, tirami il tendine d'Achille. Oppure rasati la vagina. Pare sia una cosa comune, ultimamente. Però è meglio lasciare un triangolo, una piccola pista di atterraggio, no? Ah, mi fa schifo comunque. Ho pianto come una bambina quella volta. Interessante. E quando ha pianto la vostra vagina? La mia con un uomo da un 2-3 stella. Cioè che tu non fai in tempo a percepirne la presenza, che lui è già venuto. Ah sì, e che tu ti giri e fai: uè, ma che state, che ste, è già fornuta. Però pure quelli che non finiscono mai, quelli che ce l'hanno sempre sull'attenti. Dai, e dai, tu non ne puoi più. Come no, te viene sonno, fame, pare brutto, ma è l'ora di cena e l'unica cosa che vorresti riempire è la pancia. Sì, come il seguacio di Osho, che entrava in una sorta di trance, si faceva tosto tosto, tisca tisca, si rigidiva sana sana, ispirava e tratteneva. Lo so. Evitava di eiaculare per non disperdere l'energia vitale. Sì, bravissima. Ma c'è agito, no, perdonami amore, io nasco a Napoli con Vesuvio e ho bisogno di eruzioni. A proposito di Vesuvio, le dimensioni contano? No. No, bastano la posizione giusta e il ritmo giusto, no? E soprattutto il cervello. Sì, il cervello deve essere stimolato più della vagina. Le dimensioni devono essere almeno nella media, però. È un concetto questo che riguarda solo gli eterosessuali o i miti sulla virilità? Tra donne è un'altra cosa. Si instaura una reciprocità che è impossibile tra un uomo e una donna. Che vuoi dire, scusa? È un po' difficile da spiegare. E l'amore per una donna è ancora così forte dentro di me. Faccio un po' fatica a parlarne. Grazie, Roberta. Una donna. Ma in fondo è il gusto che provi in quel momento che fa la differenza, no? Sicuramente un bel piatto di cannelloni ti riempie, ma un assaggio di formaggio piccante con il miele può mandarti in paradiso, eh? Sì. Brava, hai capito perfettamente. Benissimo. Ed ora che ci siamo riscaldate e abbiamo lasciato cadere le inibizioni, mettiamoci in ascolto del nostro corpo e del suo piacere e proviamo a formulare ad un partner immaginario le nostre richieste ideali. Pare facile. Rispondete alla domanda: cosa vorrei? O in altri termini, vediamo un po' che potemo fare. Ah, sì. Non avere fretta. Che vuoi? Accoglimi. Ho voglia. Piano, piano. Oh, ho Un po' più su. Sollevami. Ho tanta fame. Leccami la Nutella adesso. Mettilo nel posto giusto. Quattro mani insieme. Io sopra adesso. Ancora, per favore. Strizzami i capezzoli. Ai! A testa in giù. Non smettere. Ancora, ancora. Ti ricordi di me? Vieni dietro. Non ancora. Sì, sì. Ancora. Ma dove è finito? Oh, madonna mia. Benedetto. Sono qui. Sbattiamoci. Fai da solo. E fammi girare. Ancora duro. Non smettere. Dov'è Pippo? Così va meglio. Smucinami prima. Sì, lì, lì. Oh. Grazie. Stiamo procedendo davvero molto bene. Chiediamoci ora che cos'è per noi l'orgasmo. Oddio. Se e come, in quali circostanze lo raggiungiamo, sole o in compagnia di esseri viventi, sia uomini, animali e o vegetali, o eventualmente non viventi. Non viventi. Oggetti meccanici, a pile, a dinamo, energia eolica. E dica vibratori, dottore. Beh, l'orgasmo è sempre stata una cosa strana per me. Sì, cioè? Che da sola è facile. E fin da bambina, senza neanche bisogno di toccarmi. Come? Sì, basta stringere le gambe facendo un massaggio alla clitoride e parte una specie di brivido che si propaga. Beh, lo potevo fare sulla sedia mentre facevo i compiti oppure a letto prima di addormentarmi. Però da quando il babbo e la mamma mi portarono dal dottore a vedere che cosa fossero quella specie di convulsioni, poi toccava stare un po' più attenti. Insomma, avevo capito che era una cosa da fare di nascosto. Eh già, e oggi com'è la situazione? Uguale. Sì, perché per me stare con le gambe larghe, sia sopra che sotto, che di qua che di là, insomma, non cambia niente. Ma sì, divertente, anche piacevole a volte, però poi per l'orgasmo non va. Capisco. Anche a me da bambina succedeva qualcosa di simile. La mia vagina si manifestava con ondate di piacere di alcuni secondi e allora l'appoggiavo agli angoli dei tavoli, ai pali della luce, ai tronchi d'albero o alle ginocchia di mio padre. Beh, naturale processo di attivazione della sessualità. Orgasmo, dal greco orgasmos, cioè essere pieno d'ardore, di voglia ardente, esuberanza di forza, energia, succo, vicinanza col termine urgere, premere, spingere. Eh sì, eh. E alla base dell'orgasmo c'è un'urgenza, un'agitazione, un bisogno impellente. Praticamente quello che provo davanti a una lasagna dopo 3 mesi di dieta. Perché la dieta? Perché io, se sto a stecchetto troppo tempo, io a un certo punto non resisto più, dottore. Però ecco, il segreto però è non correre. Perché la lasagna la devi gustare piano piano. Prima la guardi, poi la annusi, da un morso. Ah, ancora. Poi ti riempi la bocca. Scotta. Ah, fa male, ma è quasi piacere. Riprendi fiato e poi inizi a divorarla tutta. Sopra, sotto, di lato, col ritmo frenetico, un boccone dopo l'altro, fino alla fine. Abbandoni la forchetta nel piatto e ti lasci cadere mollemente sulla sedia soddisfatta. Scusa, adesso può avere una porzione sta lasagna? Io se non lo raggiungevo entro 10 minuti diventavo isterica. Finché un'amica mi consigliò di pensare durante l'amplesso delle parolacce tipo cazzo e figa. Sì. Il culo, pisello. E da lì ho iniziato a immaginare rapporti con più uomini in situazioni estreme. E allora sì che l'orgasmo arriva. Ma mi devo preoccupare? Direi di no. L'immaginazione è sana finché non agisci in maniera distruttiva verso te stessa e verso gli altri. Cioè? Eviterei di trasformarmi nella Justine di De Sado o di vivere le 120 giornate di Sodoma, per intenderci. Ok. Oh, io esattamente che cos'è l'orgasmo non lo so. Non lo so, che devo farlo proprio tante volte di seguito, oppure molto a lungo prima di sentire qualcosa. Insomma, la mia vagina deve prendere fuoco. Ehi, mi fa stare proprio. Io raggiungo un acme di piacere che però potrebbe restare invariato per ore, per giorni anche, se io potessi continuare, perché... Capisco. Aumentano le probabilità di raggiungere l'orgasmo la mattina presto, purché abbiate fatto sesso con estrema convinzione durante tutta la notte precedente. Avete mai provato? Ecco chi, dottore, con Superman. Sì, ma dottore, ma adesso il problema sono i materassi. Sì, i memory form, come si chiamano? Sì, per ma vuoi mettere i vecchi materassi a molle di una volta? Quelli sì che accompagnavano il movimento, il basculamento del bacino, l'oscillazione dell'anca. Sì, sì, durante un amplesso particolarmente appetitoso, ecco, dopo un affondo del mio moschettiere, sono rimasta letteralmente incastonata nel materasso. Sì, dottoressa, una posizione poco ortodossa, un mal di schiena da vedere le stelle e la mia forma memorizzata nel materasso. Io li preferisco duri. Cosa, i materassi. Ah, e quali sono i luoghi alternativi, ecco, al classico materasso, il posto più strano in cui l'avete fatto? Beh, la chiesetta del collegio, nel mezzo di un campo di grano, in pieno sole, a mezzogiorno, sommersi dalle spighe che ci nascondevano alla vista, noi rotolammo con immenso piacere per un tempo infinito. Il problema fu più tardi, perché io non avevo un centimetro di pelle che non fosse rosso fiammante, un bruciore che non vi dico. Io al centro di Villa Paganini, su un tronco d'albero, nello scompartimento di un treno. Quei bei treni di una volta, divisi in scompartimenti. Chiudevi la porta, tiravi le tendine e via. In alta quota, nel bagno dell'aereo. Ah, ricordo solo il suo quadricipite, il suo gluteo e la capa schiattata rindocesse. Oh, mamma mia! Io sull'altare della patria, tra la paura di essere scoperti e l'eccitazione, ci appoggiammo alla balaustra di marmo e cominciammo a spogliarci. Penetrò dentro la mia vagina, in alto, tra le luci del mondo. Le mura aureliane. Pure. Le mura aureliane, dottoressa, era presente? Lo so, d'altra parte era estate, eravamo soli, c'era soltanto la nostra urgenza. E allora, mi sono sentita caput mundi. Wow. Nel bagno della stanza del capo ufficio. E il PC si rompe, finalmente arriva lui. Adesso arriva lui. L'assistente computer. Una voglia matta di prenderlo, di farmi prendere, di goderne fino a mancare il respiro. Apre piano la porta, poi si butta sul letto. No, siamo in ufficio. E così ci chiudiamo in bagno. E qui non facciamo sesso. Qui ci mischiamo la pelle, le anime, le ossa. E poi improvvisamente, crack! Si rompe la tavoletta del vate. No! Non so come sia successo, non so neanche in che posizione mi trovassi in quel momento, ma quel crack gela l'aria. E tutti sapevano che sarei stata lì quel pomeriggio e così via, alla ricerca di una tavoletta identica. E poi l'avete trovata? Sì, la tavoletta è stata cambiata. Al terzo piano si sono trovati casualmente una tavoletta rotta e noi abbiamo continuato a mischiarci la pelle per un po'. L'importante è finire. Ah sì, fate cose pazze, fatele con entusiasmo. Sì. L'immaginazione è più importante della conoscenza, diceva Einstein. Ci sono domande? Io sì, una. Ma che cos'è esattamente sta clitoride? L'unico organo del corpo umano che ha solo una funzione: provare piacere. Sapete che la clitoride fu scoperta durante il processo ad una strega? Veramente? Veramente. La chiamarono il capezzolo del diavolo, perché era in un luogo talmente segreto che non era convenevole a vedersi. Qualcuno l'ha vista, però. E poi ha fatto condannare la donna per stregoneria. No. Beh, anche le mestruazioni sono state considerate prova di chissà quale rapporto con il demonio. Come no? In Sudafrica le ragazze venivano segregate durante il mestruo, perché qualsiasi uomo, guardandole, si sarebbe trasformato in un albero parlante. Beh, le religioni a tal riguardo si sono sbizzarrite. Infatti, nell'Antico Testamento c'è anche un rito di purificazione. Sentite qua. Quando una donna avrà i suoi corsi e il sangue le fluirà dalla carne, la sua impurità durerà 7 giorni. E chiunque la toccherà sarà impuro fino alla sera. Ogni letto sul quale si sarà messa a dormire sarà impuro. E ogni mobile sul quale si sarà messa a sedere sarà impuro. Chiunque toccherà il letto di colei si laverà le vesti, laverà se stesso e sarà impuro fino alla sera. E l'elenco dei divieti continua per circa 7 pagine fino all'espiazione del peccato con tanto di sacrificio. Maronna, mi aiutaci tu. Secondo gli induisti, addirittura la saggezza, l'energia, la forza, la vitalità di un uomo che avvicina una donna insudiciata da escrementi mestruali periscono per sempre. Sì, in Nepal allontanano ancora le donne da casa, esiliandole in baracche, al freddo, in mezzo agli animali selvatici. Ma per carità. Sentite che dicono: se tocchiamo un uomo o qualsiasi altra cosa si trovi in casa, si crede che la contaminiamo. Se cuciniamo o usiamo l'acqua dei pozzi, il nostro Dio ci punirà. Le nostre gambe e braccia verranno torte, ci verranno cavati gli occhi, la frutta marcirà, le mucche non daranno più latte, i pozzi si seccheranno, le nostre case bruceranno e le tigri ci attaccheranno nella notte. E che esagerazione! Ma che cattiveria! Ovviamente alcune vengono violentate, rapite, morse dai serpenti, altre si bruciano con il fuoco nel tentativo di scaldarsi, oppure muoiono di ipotermia o asfissia. Oggi fortunatamente molti hanno deciso di dire addio a queste tradizioni. Per fortuna. Meno male. Comunque, da che mondo è mondo, hanno sempre avuto paura della nostra forza. È vero, è così. Ed ora, rapidamente, una dopo l'altra, come vi siete vissute l'arrivo del ciclo? A scuola i maschi ci sfottevano parlando di quelle cose. Allora io chiedo alla maestra: maestra, che cos'è un ciclo? È una cosa che si ripete con regolarità, come le fasi lunari. Mio papà mi disse: sei una donna ormai. E mia nonna: adesso devi stare attenta agli uomini. E perché? Improvvisamente macchie marroni e peli. Peli su una gamba sola, peli sparsi un po' qua e un po' là. Paura. Mi sembravano fenomeni paranormali. 12 anni. Faccio la pipì, mi alzo per tirare lo sciacquone e scopro il water. È pieno di sangue. Ero spaventata. Mia madre: solo assorbenti, mi raccomando, è presto per infilare roba lì dentro. 10 anni. Nessuno mi aveva mai detto niente. E mia nonna mi fa mettere una pezza di cotone. Era estate. Stavo da mia nonna per fare le bottiglie di pomodoro. Lei vide una chiazza rossa sulla mia sottana. Uè, fermata, nanè, non è tu qua. Si no se perden. Tieno marchesa. Avevo una fame. Fame di qualsiasi cosa. E paura che la gente sentisse l'odore, la puzza. Seconda media. 3 ragazzette mi seguono. Battute, ammiccamenti. Io accelero e loro dietro. Poi improvvisamente un umidiccio all'inguine. Loro dietro sempre più in fretta ed io più in fretta di loro. L'umidiccio comincia a colare. Imbuco il portone, corro in bagno, mi sfilo le mutande e agitandole come una bandiera corro da mia madre. Anch'io a quell'età ricordo la paura. La paura degli uomini. La paura di incontrare i maniaci. Come minimo quelli che si fanno le pippe guardandoti. Come quel porco di mio zio quando ero piccola. Mi sono sempre chiesta che gusto c'è a farsi una sega inseguendo una ragazzina. Uno dei tanti mi fermò sotto casa, in macchina. Chiede un'informazione. Ancora me lo ricordo. Mi chino e vedo che ha la patta aperta e l'uccello in bella mostra. Che schifo! Sul treno, di fronte a me, un tipo elegantissimo faceva apparire e scomparire il pene in erezione sotto un cappello. E chi era? Il Margo Silvan? Villa Panfili, giocavamo a nascondino. Un tipo con una maglia sul braccio ci invita suadente a seguirlo nel bosco. Poi scansa la maglia e ci mostra il suo arnese. Panico. L'altro giorno nel parco un tipo si siede, apre le gambe, si tira giù la lampo, se lo tira fuori e comincia a menarselo. Poco tempo fa, era mezzanotte. Chiamo l'ascensore e in un attimo mi sento afferrare. Una mano mi chiude la bocca, sta zitta, e si apre i calzoni. Ho urlato con quanto fiato avevo in gola. Urlavo, urlavo, ricordo solo che urlavo. I carabinieri mi dissero: non gridare aiuto, grida al fuoco. Disorienti l'aggressore e fai uscire di casa gli indifferenti. E purtroppo siamo circondati da indifferenti. Appunto. Ricordo che mi sconvolse il fatto che circa 70.000 donne fossero state stuprate in Bosnia nel 93 come tattica sistematica di guerra e nessuno avesse cercato di impedirlo. Migliaia di donne vengono stuprate e uccise ogni anno anche nel nostro paese. E in teoria noi non siamo in guerra. Prendi fiato. Prendi fiato. Che vuoi? La Bosnia incinta? La butti giù supina? Inarcata su un cilindro, le mani in croce legate, le cosce divaricate al massimo, la pancia grossa, grossa, tesa fino allo spasimo, la fica spalancata come il traforo del Mont Blanc, e lì e sul ventre spari i tuoi colpi fino al sangue, fino al sangue. Cosa sarà di noi? Una bella casa, il fiume, la terra, il grano, l'orzo, la frutta, i pomodori. Mio marito ucciso. Mio figlio ucciso, i miei fratelli uccisi. Anche la nonna uccisa, 80 anni, uccisa col coltello. Puzzava, dicevano, e le hanno dato fuoco. Ma prima hanno tagliato i piedi, lasciati lì perché tutti vedessero. Etnica pulizia, al buio cadevano per terra e venivano sgozzati. Mio padre è risorto, caduto al primo colpo pensavano che fosse morto. All'alba perdeva molto sangue, all'alba. Cosa sarà di voi? Luce fortissima, filo spinato, spranghe di ferro. Scariche elettriche, niente confessioni, atti sessuali, dice etnico stupro. Acqua bollente da levare la pelle, colpi bassi, costole rotte, torace deformato. Sale sulle ferite, sigarette spente sul culo, poi sodomia, sodomia. Mi diverto, dice, a farti pestare e violentare da quelli della tua razzaccia. È la tua gente, porca, dice. È porca la tua gente, dice. Come lo preferisci. Rideva. Giù botte bastonate, la testa contro il muro, con le canne dei fucili stuprate, in ogni modo stuprate, un popolo di violentate. Come lo preferisci. Che cosa mi stai facendo? Non volevi più bambini. Ora farai un piccolo nemico. Come lo preferisci? Cucinare per loro, servire nude, farsi scopare, non poter rifiutare. Cosa sarà di voi? Torture e taglio delle mammelle, anche le bambine sotto i 10 anni. Che prelibatezza! Cosa sarà di voi? Animali da macello, animali da macello. Togliti la giacca. Che cosa mi stai facendo? Togliti la gonna, togliti la camicia, togliti il reggiseno. Che cosa mi stai facendo? Anche le mutande, così sarai sempre pronta. È come un bordello, peggio d'un bordello. Puttana, sempre pronta e non a pagamento. Sempre pronta, 20 uomini di fila a notte, sempre insultata. Non ho più la nozione del tempo. Cosa mi stai facendo? Fotto tua madre, fotto. Fotto la tua razza di merda, fotto. Erano 17, 2 volte ciascuno, anche nell'anno. Che cosa mi stai facendo? Fotto tua madre, fotto. Fotto la tua razza di merda, fotto. Baciargli il cazzo, succhiargli il cazzo, inghiottire sperma e urina. Erano 17, 2 volte ciascuno, anche nell'anno. Che cosa mi stai facendo? Fotto tua madre, fotto. Fotto la tua razza di merda, fotto. Ridacci quello che hai rubato, merda. E adesso mangia la nostra merda. Che cosa mi stai facendo? Avevo 12 anni quando è nato mio figlio. Non riesco a toccarlo, a guardarlo negli occhi. La madre domani ucciderà il proprio figlio. Esisto, non resisto. Nessuno è più entrato dentro di me da allora, non più. Nessuno dorme da allora. Vorrei un posto, un altro mondo. Ora vorrei... Vorrei pace. Libertà. Baci gentili. Amore. Musica dolce. provare piacere. Fiducia. Vorrei viaggiare. Imparare a fare l'amore. Incontrare qualcuno capace di fare qualcosa per me. 62 milioni di donne in Europa hanno subito violenze nella loro vita. 246 milioni di bambine subiscono abusi sessuali ogni anno in ambito scolastico. Oltre 200 milioni violentate da un parente. 700 milioni obbligate a sposarsi prima dei 15 anni. Il 92% delle donne in India subisce violenze sessuali in pubblico. Se vogliamo che tutto questo finisca, dobbiamo denunciare, testimoniare, non aver paura di parlare. È ora di dire basta alla violenza, agli stupri, ai femminicidi. Basta al cyberbullismo, basta alle spose bambine. Basta alla castrazione, all'infibulazione, ad ogni mutilazione. Basta ad ogni privazione della libertà e distruzione dell'energia essenziale di vita su questo pianeta. Ed ora noi non abbiamo paura. E anziché tenerla nascosta sotto il velo e il burka, noi ce la guardiamo! Ora prendete uno specchio e cominciate tutte col guardarla. Guarda e troverai. Ciò che non viene cercato rimarrà inesplorato, dice Sofocle. E voi l'avete mai guardata? No, veramente. Ho capito, respirate. Dovete sapere che non è molto facile trovare la propria vagina. Io l'ho cercata per anni con donne e uomini di diverse nazionalità, sensibilità, colori, attitudini, gusti, miti, inclinazioni e dimensioni. Ma non è così che la si trova. Ah no? Allora, poi l'ho cercata nella vita monastica, in una lunga castità che in compenso ha scatenato la mia creatività. Apri di più. Non avevo tempo per me e per la mia vagina, figuriamoci per quella di altre donne. Apri, sì, bene, bene così. Cercarsi la vagina richiede tempo, pazienza. Allarga quelle gambe. No, io non ce la faccio. Perché? Non è niente di grave, voglio dire... Siamo qui per parlarne, no? È stato solo un déjà vu, un piccolo dolore. Se non ho mai provato dolore, come posso pensare di provare piacere? Non fa niente. Bene, ne parlerai quando avrai voglia. Cercate di evitare l'autosabotaggio, lavorate con concentrazione e determinazione. La concentrazione porta al successo. Una delle più gravi cause di fallimento è la mancanza di autodeterminazione. Qualcun'altra ha avuto esperienze fallimentari? Ok, è stato un flash. Il desiderio era forte, ma la paura devastante, un blocco enorme. E lui chiedeva perché. E no, e te fai le pere, e magari mi rubi pure la catenina d'oro, pensavo. La mia vagina era muta. È come la mia bocca, non riusciva ad aprirsi. Bene, l'incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche. Se si verifica una reazione, entrambe si trasformano, diceva Jung. E se non si verifica, assumi altre sostanze, aggiungerei io. In che senso? In tutti i sensi. Scherzo, guarda oltre, cerca altrove. Ah! Bene, a questo punto vorrei che descriveste la vostra vagina. Oh, madonna mia! Sì, cosa vi ricorda? Quale immagine l'associate? Una cozza. Oh, una pez che indovina. Una barca, da pesca. Un peschereccio pieno di pesci. Bene, poi? Una pianta carnivora. Una gatta in calore. Benissimo, ancora? Un portale magico. Anzi, no, un pozzo senza fondo che attira e risucchia tutto quello che capita. Oh, Maronne, che tieno poltergeist? Un centro di gravità permanente. Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Bene, adesso applica ciò che è utile, scarta ciò che non lo è e aggiungi ciò che è unicamente tuo. Insaziabile. Bene. Tu equilibra i pensieri con l'azione. Se passi troppo tempo a pensare, non raggiungerai nessun obiettivo. Non so cosa dire, mi dispiace, non so da che parte cominciare. Senza frustrazioni, non potrai mai capire se sei in grado di fare qualcosa da sola. D'accordo, ci provo. Brava, si cresce attraverso i conflitti. Inquietante. Prenditi il tempo di cui hai bisogno, è tutto normale. Si chiama un passo della vagina. Ce l'ho avuta anch'io. Una bistecca vegetale biologica, dottore. È rossa. Cavoli, se è rossa. Ecco, sono riuscita ad aprirla. Corridoi, cunicoli, gallerie, tante vie, viali, viottoli. È bella. Una sfogliatella. No, me la fotografi, per favore. Ma no, dai, che schifo, no, è brutta. È un'ottima idea, così no. Capiamo meglio com'è fatta. Fotografa pure la mia, così la metto su Facebook. E la posso aprire e chiudere. Aprire e chiudere. Aprire e chiudere. Aprire e chiudere. Aprire e chiudere. Ora cercate un suono connesso col diaframma. Un suono che sia la vostra voce autentica e non la voce dei vostri ruoli quotidiani. Sì, nessuno da compiacere, nessuno da accontentare. Via. Più disinibite, trasgressive, su. Più militanti, più bisessuali. Cercate un suono buono per tutte le stagioni. Su, prendo fiato, trattengo, via! Adesso emissione lenta e martellante. Pronti? Ed ora permettiamoci di risuonare all'unisono. Di gioia in gioia, o che scorre di dirvi, di sentire il piacere, mosca il giorno, di giorno muoia, sempre gli mandi ritrovi. Bene, a questo punto del nostro viaggio dovremmo aver chiarito molte cose o perlomeno ampliato la nostra consapevolezza. Abbiamo capito che è necessario continuare a lottare per i nostri diritti, cercando di non perdere però il contatto con la nostra essenza, con i nostri valori primari e universali. Noi non ci arrendiamo mai, anche quando tutto sembra perduto. Noi continuiamo a combattere o a resistere oltre ogni ragionevole limite. Noi riusciamo a dare valore anche alle briciole. Facciamo crescere i nostri semi, trasformiamo lo sperma in un bambino, una baracca in una casa, una discarica in un teatro, sì, come abbiamo fatto noi, perché avevamo bisogno di un posto in cui far incontrare i pensieri. Come qui, con voi, stasera o altrove, ovunque ci diamo la possibilità di creare questi incontri. E in tutto questo nostro fare, disfare, costruire, migliorare, crescere, c'è ancora oggi qualcuno che ci chiama donne con le palle. Come se dovessimo ancora competere con gli uomini anziché cooperare, non è così? Sì, no, ma io e palle tengo a caso, sono i miei seni, mi bastano e mi avanzano. E non so voi, ma io non ho mai avuto l'invidia del pene. Beh, magari qualche volta un po' di nostalgia. Io lo stimo il pene. È un bel articolo, per carità. Sa essere anche divertente quando vuole, quando si impegna però, eh? Ah, io mi tengo la mia vulva e il pene sta bene dove sta. Sono d'accordo. A ciascuno è suo, la cosa migliore per essere felici. Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo, in piedi, signori, davanti ad una donna.